Le 14 in punto, giovedì 13 gennaio del 2011, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Come ogni giovedì l'appuntamento con il cinema, Visionari, dalle 14 alle 15. Per saperne di più trovate la scaletta sul sito della radio www.ondarossa.info, alla voce trasmissioni. Visionari, per l'appunto, con gli ospiti di questa puntata, le uscite di domani in sala, venerdì 14 dicembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, il link per ascoltare la puntata precedente, leggere recensioni e interviste. Cominciamo con gli ospiti, un attimo di pazienza. Con noi Felice K, regista del documentario Un sasso nello stagno. Pronto, ci sei? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato, come va? Non sono tempi facili. Hai ragione. Allora, io ci tenevo ad avere la tua presenza per il tuo lavoro che mi interessava. Non sono riuscito a vederlo quando è stato presentato al Festival del Cinema di Roma. E raccontaci un po' di cosa si tratta. Dunque, parte da un'esigenza personale, una sorta di debito nei confronti di Gianni Rodari. Debito come padre, perché ho un bambino di 9 anni e l'ho riscoperto dopo averlo saccheggiato come insegnante, perché per 2 anni ho fatto anche il maestro elementare, e soprattutto dopo avermi goduto come bambino, perché i miei genitori me lo regalarono, me lo lessero, e quindi insomma per me è stato un incontro importante. Quindi nasce da tutto questo, e adesso che ho avuto la possibilità ho provato a seguirne le orme in un modo un po' particolare. Adesso non vorrei fare un monologo. No, infatti ti chiedo intanto cosa ti affascina del personaggio Rodari, della sua opera, e su cosa ti sei voluto concentrare. Allora, prima di cominciare questo lavoro praticamente non sapevo nulla della biografia di Rodari. Sapevo che aveva militato nel Partito Comunista, che aveva lavorato all'Unità prima, Paese Sera dopo, però non conoscevo il suo percorso biografico, e quindi innanzitutto ho fatto un lavoro di ricerca. Sì. E come mi era già capitato per altri lavori documentari che ho fatto per la RAI, ho provato a cercare una formula diversa, che era quella di costruire un'autobiografia non autorizzata. Questo perché mi era successo già negli anni passati di scoprire che dopo che un grande autore, regista, parlo non so di Edoardo De Filippo, di Giorgio Streder, ma anche di Sinopoli, quando mancano questi grandi uomini si scopre che poi gli amici si moltiplicano, i parenti diventano tantissimi. Sì. e ne danno poi alla fine tutte le interviste, spesso danno un quadro falso di quello che è stato, cioè eliminano per esempio le contraddizioni, diventano un po' a senso unico. Sì. Quindi si perde un po' la profondità, no? La profondità anche in senso metaforico, cioè il grande pensiero che c'è dietro. Rimane solamente un ritratto bidimensionale in cui in genere è un bravissimo, bellissimo e ovviamente assolutamente privo di qualunque difetto. Sì. Paradossalmente invece se si recuperano le parole dello stesso autore, e come dicevo prima, insomma mi è successo anche per altri, ma per Rodari in modo particolare, emergono anche le contraddizioni che nel caso di Rodari si tratta veramente di una persona straordinaria e il primo a mettere in luce. E quindi ho ricostruito una sorta di biografia attraverso tutto quello che lui ha detto alla radio, alla televisione, o attraverso interviste o attraverso racconti sulla sua biografia, intrecciandolo ovviamente poi col suo pensiero teorico, con citazioni dai suoi testi. E alla fine secondo me il ritratto è più interessante, primo perché comunque sono cose che ha detto lui di se stesso, e per quanto uno poi si possa vedere in un modo un po' particolare, comunque mi sembra che lui fosse autoironico e fosse capace anche di, come dire, prendere distanze dal suo ego, non dalla parte di se stesso un po' più aggressiva, un po' più così velleitaria. E poi perché comunque in qualche modo senti le parole che lui dice in quel tempo, perché forse, non so, io facendo questi lavori me ne sono reso conto che le stesse parole dette in epoche diverse suonano in modo molto diverso, proprio cambia il linguaggio, cambia, ovviamente cambia il contesto, e quindi mi è sembrato insomma interessante ricostruire così la vita di Rodari. Poi tra l'altro io la sto raccontando in modo molto poco brillante, sicuramente noioso, ma in realtà è molto divertente quello che lui dice di se stesso, quello che lui dice di bambini, della scuola, della società, e io ho ricostruito un po' insomma il suo percorso. Ovviamente lui ha fatto la resistenza, è passato prima attraverso la povertà, attraverso un'infanzia difficile, è rimasto orfano a 9 anni, e poi ha vissuto gli anni fantastici del dopoguerra e quindi della ricostruzione, insomma gli anni 70, lui è morto nell'80. Ed è molto bello sentire le sue parole, anche l'entusiasmo, le delusioni, insomma, diciamo un'energia che oggi è difficile riscontrare, non solo nei politici, che ovviamente no, sono quello che in tutti quanti noi pensiamo di loro, ma anche degli intellettuali, cioè l'idea di un futuro che può essere migliore del nostro presente. Senti, narrativamente come è costruito il documentario? Ti sei basato su interviste, materiali d'archivio? Sì, dunque, l'archivio Rai è un archivio straordinario e per quanto si possa dire male della Rai, bisogna riflettere che comunque ha testimoniato quello che è accaduto nel paese dal 54 in poi. Per la parte precedente ho utilizzato appunto sue autobiografie o materiali vari anche di archivi privati, e il percorso è molto semplice, c'è un bambino di oggi del 2010-11 che ritorna sui luoghi di Rodari e in qualche modo vuole ricostruirne il percorso, e quindi si rivedono i luoghi di Rodari dove è cresciuto, Omegna, poi a Gavirate, poi a Milano, Roma. Quindi si segue un po' la strada che ha fatto. Però vengono citati dei brani del pensiero teorico che era sempre accompagnato sull'infanzia, appunto sulla scuola, sulla pedagogia. Oggi Rodari probabilmente sarebbe arrestato come un black bloc oppure come un ragazzo dei centri sociali, perché le sue posizioni sono sicuramente di un pensiero critico molto, molto pronunciato, ecco. Quello che lui dice della famiglia, della società, della scuola, sono cose che appunto per risentirle oggi bisogna andare nei centri sociali. Vi assicuro che sembrerà paradossale, ma chi vedrà il film si renderà conto che abbiamo fatto grandissimi passi indietro, insomma, da questo punto di vista. Senti, nel bene e nel male, quali sono stati gli aspetti che non conoscevi e che più ti hanno sorpreso di Rodari? Ma dunque, era un intellettuale libero, diciamo due cose. Innanzitutto quello che secondo me non si studia più abbastanza ed è la forza dirompente della creatività, e questo appunto ha riflessi sia nel rapporto genitori-figli che nel rapporto allievo-docente, quanto lui la coltivasse e la praticasse. E apro una piccola parentesi, Rodari è un autore di letteratura per l'infanzia che passava molto tempo nelle scuole, molto tempo a fare laboratori con i ragazzi, al contrario di tanti accademici che si chiudono nelle università e leggono libri e teorizzano e pontificano, lui è uno che dell'infanzia conosceva tantissimo perché lui con i bambini ci stava bene, ci stava volentieri, non frequentava solamente i convegni universitari o le accademie o la saggistica, ma insomma aveva il piacere di stare con i bambini e aveva anche l'umiltà di imparare da loro. L'altra cosa molto interessante è che lui è comunque una persona con una fortissima impronta, possiamo secondo me usarle queste parole, ideologica, però pronto a difendere le cause belle e per esempio ovviamente oltre alle polemiche che magari sono più note con l'Azione Cattolica, con il mondo cattolico che era particolarmente aggressivo nel dopoguerra, fu anche capace insomma di sostenere una polemica addirittura contro Togliatti e la Iotti a proposito dei fumetti. Mm-hmm. Non so se è nota questa cosa, se volete posso raccontarla brevemente. Come no, dacci un accenno sicuramente. Sembrerà incredibile, ma nel 1951 in Parlamento fu proposto di proibire i fumetti in Italia, cioè non quei fumetti, ma quei fumetti in generale, perché sia da parte cattolica che da parte comunista erano considerati pericolosi. Cattolici perché non avevano più, come dire, il governo delle coscienze attraverso, come dire, la catena dell'oratorio, della chiesa, dicendo. Per quanto riguarda invece i comunisti c'era l'incubo della stampa che era una stampa industriale, quindi, come dire, la macchina della cultura era gestita dal business e non dagli intellettuali organici. Ho capito. E niente, banalmente Rodari prese la penna e scrisse un intervento molto divertente, ma anche molto, come dire, netto a Rinascita, scrisse indirizzandolo al direttore che era Togliatti di Rinascita, dicendo appunto che la Iotti che in Parlamento sosteneva questo e si stava sbagliando e che non confondeva, diciamo, il mezzo e il contenuto, quindi il linguaggio, la forma e il contenuto. Dipende sempre da che cosa si racconta con qualunque tipo di media, cioè che sia la televisione, che sia il fumetto, che sia il web, dicendo. Mm-hmm. Fu molto lucido e anche molto coraggioso, poi insomma diciamo che pagò questo, non rappresentò mai il Partito Comunista in situazioni ufficiali, formali, tant'è che poi dall'Unità passò al Paese Sera, insomma, mm-hmm, un'area diciamo critica della sinistra. Mm-hmm. Senti Felice, per saperne di più sul tuo lavoro in rete c'è qualche sito e poi anche possibilità che venga programmato in televisione oppure distribuito in sala o altro? Dunque, stiamo programmando una serie di anteprime. Dopo il Festival del Cinema di Roma siamo andati a Rovereto, una rassegna che si chiama Educa, e al Festival del Cinema di Bellinzona per i ragazzi. Adesso il 6 è previsto a Milano, un'anteprima a Milano, all'Oberdan, una rassegna sul cinema italiano. Ma soprattutto il DVD è possibile acquistarlo contattando i produttori che oltre alla RAI sono Fondazione AIDA. E la Fondazione AIDA sul sito sia www.fondazioneaida.it trovate poi tutti gli estremi per vederlo. Ho capito. E niente, poi insomma spero che circoli, abbiamo tantissime richieste per fare proiezioni, però appunto diciamo che la cosa interessante è che poi ognuno a sua volta faccia da volano per far conoscere il pensiero, certo, di Rodari. Tutto quello che viene detto lo dice Rodari, quindi io ho provato a rimettere insieme i pezzi, però certo, diciamo l'autore fondamentale dei testi, la regia è mia, ma l'autore, lo sceneggiatore sono io, ma l'autore è Rodari. Allora, speriamo di vederlo presto in sala. In bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Grazie molte, grazie a tutti. Ciao Felice, ciao. Bene, Felice Cappa, regista del documentario Un sasso nello stagno. Proseguiamo. con noi Roberto Silvestri, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Bene. Allora, con te ci tenevo ad averti con noi perché l'ultima puntata dello scorso anno, era il 30 dicembre, abbiamo invitato anche un po' di ospiti oltre a noi visionari per le nostre cinquine, ossia i nostri cinque film preferiti del 2010 tra quelli usciti in sala. Stavo ripensando all'altra sera quando ci siamo incontrati, che io ti ho detto del segreto dei suoi occhi che tu non hai visto, sì. E tu mi citavi Post Mortem che io non ho visto. Sì, e poi va bene, la globalizzazione è uscita in sala, vuol dire usciti nella sala del mondo, o no? Sì, esatto. Solo in Italia? Purtroppo sì, ecco, avevo questa visione limitata delle cose, ma hai ragione anche tu del resto. Perché come facciamo a dire che il film di Zeze Takahisha, Event Story, non rientra nelle cinquine solo perché l'hanno visto solo a Tokyo? Cioè non è possibile. Però parliamo di una cosa che la maggior parte delle persone che ci ascolta non ha modo di fruirne. Beh, dovrebbe arrabbiarsi per questo. Dovrebbe arrabbiarsi per questo, hai ragione. Un paese veramente sottosviluppato dal punto di vista delle offerte televisive minime, cioè la bellezza non circola neanche nelle televisioni pubbliche. Eh sì. Senti, hai ripensato a qualche titolo rispetto... Ma guarda, io ho fatto una classifica dei cinque che è uscita tempo fa su Alias, in cui ho messo Perdone e dimentica di Todd Solondz, Lo zio Bon Mi di Apicha Pong, Vera Setakul, e The Hall che credo, di Joe Dante, credo siano gli unici tre film su cinque che sono usciti nelle sale, perché Film Socialism di Godard non è mai uscito, Caterpillar di Vacamazzo non è mai uscito. Mm-hmm. Quindi ci mancano due altri buchi, e allora, visto che siamo così nazionalisti, metto due film italiani che sono straordinari. Sì. Uno di Mario Martone, sì, che è quello, noi credevamo che è quello, questa specie di controlezione sul risorgimento italiano, fatta pensando molto anche all'oggi, e con uno sfoggio di attori fantastici. Ci saranno 100 attori italiani che non vediamo mai nei film, che sono uno più bravo dell'altro e che veramente rendono tangibile lo spreco della nostra creatività, no? Dal punto di vista proprio del lavoro di attore. Ma poi il richiamo all'oggi è visivamente palese poi in quella costruzione di cemento armato che compare. Sì, beh, non solo, ci sono molti anacronismi, no? Cioè qua e là diffusi, insomma, i boulevard che richiamano alla Comune di Parigi che ci sarà tra qualche decennio, poi sì, c'è questa musica elettronica molto contemporanea, no? Cioè ci sono una serie di elementi, sì, sì, sì, sì, che fanno sì che la riflessione su ieri non diventa soltanto uno sceneggiato televisivo, cioè che racconta una storia di cui non frega nulla oggi, ma invece è proprio puro lavoro teorico sull'oggi, no? Capire come nel campo dei conservatori, nel campo dei progressisti ci siano stati in entrambe le situazioni momenti di modernità e momenti di arretratezza, e come oggi magari né il campo dei conservatori né il campo dei progressisti esista più in Italia. In qualche modo è questa la cosa fondamentale. Naturalmente c'è Avatar, che è un po' sopra tutti, perché il film di Cameron in qualche modo secondo me ha unito due cose molto complesse, che sono, l'aveva fatto anche Zemeckis con quel bellissimo film tratto da Dickens sui racconti di Natale, ma insomma l'uso del digitale, del 3D in qualche modo fa capire che, a proposito dell'attore, no, più si va nel digitale più si va nel rientro e nel recupero di tutte le forze drammaturgiche dell'attore, perché questi sensori messi sul corpo, questa possibilità di riprendere l'attore a tutto campo, a tutto tondo, con il, diciamo, cinema tradizionale, no, fatto a segmenti, a pezzettini, eccetera, aveva un po' tolto questa performance dell'attore. Comunque non c'entra niente con l'Italia, stavo dicendo dell'Italia. Allora, l'altro film italiano interessante e secondo me bellissimo, e più passa il tempo più diventa più interessante, è quello di Fran Martino, Le quattro volte. Non so se ne avete parlato in questi... È stato il più citato. Abbiamo fatto, sì, una quindicina di interventi, almeno 10. Arrivo tardi, sì. Infatti me ne sono accorto tardi, ma insomma è un film che sta crescendo sempre, sì, di più, sì, a proposito, sì, anche del rapporto, non so, c'è questo libro di Agamben che è uscito, L'aperto, no, il rapporto uomo-animale, uomo-natura, l'animalità che è in noi, l'animalità che non è in noi, questa specie di cultura un po' antica, pre-cristiana quasi, che Fran Martino cattura in questo posto calabrese, no, molto da Magna Grecia, in cui i destini del capretto, il destino del vecchietto, il destino del cane, della del camion, in qualche modo dell'albero, sono collegati in una specie di disegno cartesiano e nello stesso tempo molto irrazionale. Beh, insomma, un film veramente fantastico e fa capire che anche noi abbiamo dei grandi visionari come Vera Setakul. Oh, poi un'altra cosa, Roberto, ti avevamo sentito in occasione del Festival di Sulmona, di cui sei il direttore artistico, e un'altra cosa che vorrei sapere da te è il tuo bilancio di quest'anno cinematografico, del 2010, non solo dal punto di vista italiano, ma in generale. Ma dunque, tanto dal punto di vista italiano, si sa, insomma, si conquistano fette di mercato, no? Che insomma è sempre un elemento interessante per quanto riguarda il lavoro, soprattutto dei tecnici, dei lavoratori del cinema, eccetera. Quindi la capacità ancora attraverso questo studio della nostra civiltà, delle maschere, della commedia, eccetera, ha portato di nuovo un rapporto molto intenso con il pubblico. Questo è interessante, tra l'altro una cosa interessante è che in America se ne stanno accorgendo, per cui non so, ci sono molti dipartimenti di scuola del cinema che studiano il cinema panettone, che studiano i fratelli Vanzina, le nuove forme di comicità. Questo è molto interessante, insomma, evidentemente le nostre originalità poi noi magari non le apprezziamo troppo, non le conosciamo bene, altri le conoscono prima e meglio di noi, a parte il grande pubblico che invece dà dei segnali molto veloci, no, anche rispetto a film che magari si pensano imprevedibilmente di successo e che invece poi funzionano benissimo, non solo i grandissimi, no, ma insomma anche cost to cost, Basilicata cost to cost, film interessante, insomma ci sono state delle sorprese, ci sono da registrare. Nello stesso tempo continuiamo appunto a trovare ignobile il fatto che molti cineasti di ricerca, molti cineasti che dovrebbero essere appoggiati dal nostro governo, dalle nostre istituzioni culturali, invece vengano abbandonati. Pensiamo appunto al film di Guadagnino, no? Che pur avendo avuto un grande successo a livello angloamericano viene poi emarginato e si fa proprio una specie di terra bruciata rispetto a certi cineasti, che ne so, Roberto Torre per esempio, che aveva un film magnifico, che ha portato a Venezia, poi invece ha Val Sundance, e non ce ne siamo in fondo neanche tanto accorti, no? Della capacità invece forte che ha questo cinema rispetto al pubblico globale, per cui è vero che in Italia alcuni film vanno molto bene ma sono assolutamente inguardabili all'estero, tranne appunto nelle università dove li studiano per trovarne cloni migliori, ma invece appunto è come se fossero abbandonati poi i cineasti che invece la Francia, la Germania, la Spagna glorificherebbero. Questo è un brutto segno, ma un po' fa parte del male italiano. Invece per quanto riguarda a livello internazionale, il fatto che paghiamo molto di più per vedere certi film, insomma, è un segno che sta cambiando un po' il mercato. Il 3D sta, il 3D finto spesso, anche o comunque modificato, camuffato, non dei grandi film come Avatar, The Hall di Joe Dante o Zemeckis, eccetera, ma insomma che viene un po' appioppato a tutti, sta facendo semplicemente crescere il prezzo del biglietto, e questa è una insomma concorrenza in qualche modo sleale, perché poi il fenomeno di concentrazione delle sale aumenta. Quindi per quanto riguarda insomma il cinema americano, c'è insomma una, adesso vedremo il Sundance che ci dice, credo che ci siano segni di grande vitalità, non, insomma gli americani non devono più chiedere ai francesi di fargli finanziare i film perché noi in America non trovano più possibilità produttive. L'uscita di questo, per esempio, Kill Me Please, no? Questo film belga, interessante, perché anche nel cinema europeo insomma ci sono segnali un po' di fuoriuscita dal cinema pubblico, dal cinema di Stato, dal cinema controllato, dal cinema censurato, dal cinema che non puoi dire questo, che non puoi dire quell'altro. Questo esempio di una che viene da una cinematografia franco-belga sempre molto controllata, insomma dà speranza che qualche cosa di un po' fuori schema possa funzionare anche in Europa. Bene Roberto, allora io spero di sentirti prossimamente durante l'anno, piacevolmente. Anch'io. Ciao. Allora un abbraccio e a presto. Ciao. Roberto Silvestri, proseguiamo. Bene, sono con noi Isabella Sandri e Giuseppe Gaudino per parlare del loro documentario Per questi stretti morire, cartografia di una passione. Ben trovati. Buongiorno. Intanto. Salve a tutti. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Ti sento bassissimo. Anche noi un po' basso. Sentiamo. Ecco, proviamo un po'. Buongiorno a voi. Ecco qui. Vediamo se adesso è più incisa. Eccoci. Tutto bene intanto? Bene, bene. Sì, grazie dell'invito innanzitutto. Allora, il vostro documentario è stato presentato a Venezia, quindi è un po' che ce l'avevo in mente per parlarne. Per chi ci ascolta, intanto raccontiamo il tema, di cosa si tratta. È la storia di un esploratore che è partito nel 1910 dal Piemonte, era un missionario partito giovanissimo che però aveva la passione per la fotografia e per le riprese ed era anche un cartografo e ha girato un film bellissimo dal 1910 al 1935 da solo con i suoi mezzi nella Terra del Fuoco in Patagonia. Oh, tra l'altro, se mi ricordo bene, aveva anche una parentela importante. Sì, era il fratello minore di Giovanni D'Agostini, il fondatore della casa editrice degli Atlanti Geografici. Noi tutti abbiamo studiato sui loro Atlanti, sì. Però non c'è più nessuno nesso tra il D'Agostini nostro e la D'Agostini di oggi. Certo. Sono due realtà completamente diverse. Hanno solo conservato il marchio, ma non c'è nessun legame, ahimè, per noi. Senti, allora, come siete arrivati a conoscenza di questa figura e come avete pensato poi di realizzarne un lavoro e come lo avete realizzato? Ma ci sembrava una cosa triste che in Italia non lo conoscesse nessuno, cioè tutti conosciamo Chatwin nel suo libro bellissimo Viaggio in Patagonia, però nessuno sa nulla dell'opera del D'Agostini e questo ci sembrava un torto perché il film appunto Terre Magellaniche è veramente molto bello, è conservato al Museo della Montagna di Torino e per il resto di D'Agostini non si sa quasi nulla, è stato pubblicato un suo libro Ande Patagoniche anni fa, ma non in Italia, ma non se ne conosce proprio l'opera e questo ci sembrava, ci siamo innamorati proprio delle immagini e della qualità altissima artistica delle sue riprese, delle 20.000 fotografie che ha fatto, ma soprattutto del tema degli indigeni scomparsi. Esatto. È stato l'unico che ha filmato le ultime etnie della Terra del Fuoco e della Patagonia prima che scomparissero completamente, quindi diciamo che e poi il modo in cui le ha riprese che è molto bello. Noi che siamo sempre stati un po' viaggiatori, dopo l'Afghanistan cercavamo una storia da girare in Somalia, ma ahimè era impossibile girare negli anni passati, ma anche tuttora, in quei luoghi e ricostruire un po' quello che era accaduto lì. E da questo incontro con la Somalia abbiamo conosciuto un professore che era specializzato, Nicola Bottiglieri, sulla Patagonia e sulla figura del nostro protagonista e abbiamo deciso di convertire la Somalia nella Terra del Fuoco, dedicandoci alla Terra del Fuoco. Oh, quindi un personaggio con una grossa passione geografica, una grossa passione per l'immagine, anche un atteggiamento rispettoso nei confronti delle culture native. Sì, perché ha ripreso queste ultime etnie non con uno sguardo scientifico, ma riconoscendo l'importanza che queste popolazioni avevano nel luogo, erano riusciti a sopravvivere per millenni in questi luoghi ostili e in pochi decenni con l'arrivo dell'uomo bianco sono stati falcidiati anche per crimini anche di tipo economico, nel senso che le famiglie, i grandi possidenti argentini, cileni ma anche europei sono arrivati lì e hanno portato via le terre dove queste popolazioni ovviamente trovavano il loro le forme di sussistenza, mangiavano la carne del guanaco, il guanaco è stato ucciso dai proprietari terrieri per fare posto all'allevamento delle pecore, no? Che era la nuova fonte di profitto e gli D'Agostini li ha ritratti con grande rispetto, grande amore e non li ha visti come l'altro, li ha visti invece come una parte una parte di noi che è stata soppressa, che è stata fatta scomparire, cioè questo rapporto che aveva con la natura e anche con le persone che abitavano in quei luoghi, che già all'epoca in cui lui andò là già stavano appunto scomparendo, era un atteggiamento di curiosità e di grande apertura, molto molto recettivo. L'immagine bella di D'Agostino è che lui rispetto a questa umanità si metteva con uno sguardo quotidiano, ha messosi in scena delle situazioni, perché ormai all'epoca, già negli anni 30, non esistevano più, però li ha ricostruiti, e chi avrà la fortuna di vedere il film di D'Agostino, Terre Magellaniche, capirà cosa vuol dire aver perso quell'umanità in cui vedi le persone che mangiano, si vestono, che fanno un rito propiziatorio per togliersi un malore, capisci, c'è qualcosa che si perde. Lui è riuscito con la sua macchina da presa, col suo sguardo, a restituirci dopo 60 anni questa bellezza, e quindi questa bellezza che comunica, e quindi l'esperienza che noi abbiamo inseguito, e proviamo a inseguire questa, dove ha tratto ispirazione questa sua bellezza e questo suo rispetto. La questione importante è che la sua umanità nasce dal fatto di essere un religioso, però insomma non è che ci siamo affezionati a questo aspetto degli Agostini, sì. Noi non avevamo però questa capacità che aveva di esaltare la bellezza, però anche non solo esaltare la bellezza, ma anche far capire perché quello che stiamo perdendo, che queste sono che sono dei valori. Già lui all'epoca sentiva e capiva che era un valore la bellezza di questa natura e di questa gente, poi, perché era gente che era, anche se andava in giro nuda o coperta di grasso di foca, aveva un vocabolario più esteso di quello che usava Shakespeare, cioè usavano più di 35.000 parole, vocaboli, e avevano, non so, un centinaio di parole per definire l'atmosfera, la nebbia, la neve, la qualità dell'aria. C'era un rapporto profondissimo con la natura che è andato perduto chiaramente, e tutto questo è stato testimoniato proprio da queste immagini che hanno come reso giustizia ai veri abitanti del posto prima che arrivassero i colonizzatori e predatori. No? Posso inserirmi? Come no? la cosa bella che D'Agostini ha tradotto la cultura italiana per la passione per la montagna e per la documentazione, che fine 800, primi 900, fino agli anni 40, era usata come parametro per dire noi ci siamo, noi andiamo. E gli italiani hanno fatto varie scuole, pensiamo a Piacenza e ad altri esploratori che hanno veramente Vittorio Sella, hanno cercato, ma non di mettere, di battezzare un luogo con il proprio nome, ma di portare l'esperienza della documentazione visiva e fotografica, cinematografica e fotografica, in una maniera che ancora oggi ci parla, cioè non è un materiale morto, è un materiale che è ancora vivo, e chi avrà la fortuna, ripeto, di vedere Terre Magellaniche può avere questa sensazione. E non è una percezione soggettiva, è proprio oggettivamente le sue 20.000 fotografie, dove ritrae tutto, di tutto, senza nessuna preclusione, è una lezione di sguardo, è una lezione anche civica, ma lui non ha mai messo il suo essere religioso, solo una volta si è messo in scena, ma dura veramente neanche 17 secondi, solo una volta, in un film di un'ora e 40 quasi. Ma poi gli è stato rimproverato appunto di non fare abbastanza battesimi, matrimoni, di non convertire gli indigeni, cioè era un missionario un po' sui generis, molto appassionato per le montagne, le immagini, le fotografie, le esplorazioni, le carte geografiche, ma non... In questo senso ha avuto molti problemi, tra l'altro, con l'ordine religioso, che l'ha messo da parte e ha anche boicottato dal lavoro. Per noi era importante aver capito che con D'Agostini si potrebbe fare un discorso su cos'è la perdita e cos'è l'oblio. La dimenticanza di questo patrimonio che lui ha lasciato. Lui in Cile e in Argentina è riconosciutissimo, ha tre facoltà intestate a lui, insomma... E veramente lo hanno eletto proprio rappresentante. Se tu vai nelle navi di crociera, di queste navi da 2.000-3.000 persone, sui tavolini, sui quadri, e vedi le foto che lui ha scattato, quindi c'è una identità, c'era un'identità con lui, questo è molto bello. Purtroppo lui è testimone dell'ultimo momento in cui è iniziato l'oblio. Lui era preoccupato che si perdessero quei ghiacciai, era preoccupato che si perdessero quell'umanità, quegli scorci, e adesso noi andando, siamo andati giù dal 2007 al 2008, abbiamo visto cosa vuol dire una missione vuota, un edificio senza più religiosi, con un tessuto umano che si è perduto. Loro fanno di tutto per conservarlo. E il nostro tentativo è di far percepire questa sensazione di afferriamo questa storia e prendiamocela e non lasciamola abbandonata nell'oblio. No, è che si è posso parlare? Come no? Sì, sì, sì. No, che si è quando noi siamo andati là abbiamo capito che tutto quello che era cantato e raccontato dal De Agostini, Tele Magellani, che era stato soppiantato completamente da delle nuove realtà. E quindi le stancias, questi allevamenti poi di ovini sono praticamente abbandonati. Le stanze sono delle fattorie. Le fattorie, e abbiamo visto che le fabbriche, no, di dove congelavano gli animali e li esportavano in Europa, tutto questo è stato abbandonato. Infatti nel nostro documentario, nel nostro film, ci sono tutte queste cose raccontate, in questo abbandono, questo sfacello, no, di tutte le cose in cui nel secolo scorso credevano fino al 1940-1950, e tutte queste cose sono state sostituite da un nuovo tipo di economia, che è quella turistica, per cui i collegi salesiani sono chiusi, non ci sono più gli allievi che restano, gli insegnanti sono privati, non sono più dei religiosi, perché abbiamo conosciuto questi vecchissimi ottuagenari sopravvissuti, e sono tipo 7-8 anziché 80 come erano all'epoca degli Agostini. Ora tutto questo, noi non è che vogliamo fare un discorso su ciò che è bene, cioè non era questo, però abbiamo assistito a questo cambiamento epocale. È molto interessante. Poi il discorso del riscaldamento globale, dello scioglimento dei ghiacciai, che tutti i ghiacciai fotografati da De Agostini, la natura fotografata da lui, i ghiacciai stanno diminuendo e la natura adesso è oggetto di di grande sfruttamento turistico, per cui piccole città che non esistevano quasi neanche, dove c'era solo la casa di un pioniere, adesso sono dei villaggi turistici, e c'è questo grande business del turismo che a un certo punto di vista va anche bene, perché vedere questi luoghi è veramente bellissimo, un'esperienza indimenticabile. Senti, però dall'altra parte si è perso completamente l'approccio che lui poteva aver avuto nei suoi anni. Sì. In conclusione, per saperne di più sulle possibilità di vederlo, se avete anche dei riferimenti internet del vostro lavoro. Adesso stiamo costruendo il nostro sito un po' nel tempo, però quello che di sicuro ci sarà una proiezione. Adesso abbiamo fatto una versione corta per le sale di 70 minuti, che non è quella di un'ora e mezza della Biennale di Venezia, ma è una versione più corta, e la faremo circolare, deve avere una distribuzione cinematografica. Stiamo dialogando con i distributori ancora. Allora fateci sapere. Volentieri. Allora grazie, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie, ciao. Giuseppe Gaudino, Isabella Sandri, registi del documentario Per questi stretti morire, cartografia di una passione. Federico, regista del documentario 107 secondi, Operai del Sud, ben ritrovato, caro. Ci Ciao sei? A tutti e a tutte. Tutto bene, sì. Sì, sì, tutto bene. Oh, allora, cominciamo col dire che il tuo documentario sarà proiettato questa sera al Nuovo Cinema Aquila. Sì, questa sera faremo due proiezioni perché pensiamo che ci sia tanta gente che verrà a vederlo. Una proiezione sarà alle 19:30 e un'altra proiezione alle 20:30. Allora, si parla di Fiat, giusto? Sì. Raccontaci un po'. Si parla di Fiat e in questo documentario noi abbiamo conosciuto e seguito i tre operai della Fiat Sata di Melfi che sono stati licenziati in seguito a uno sciopero, reintegrati dalla sentenza di un giudice, ma poi la Fiat si è rifiutata di accettarli nello stabilimento. E questi tre operai fanno un giro per altri stabilimenti del sud Italia, Cassino, Pomigliano, Foggia, dove si producono i motori per i veicoli commerciali della Fiat, e in questo giro si fanno varie iniziative di fronte ai cancelli, di fronte alle fabbriche, ovviamente Melfi anche, che è lo stabilimento da cui partiamo, per scoprire qual è la condizione, cioè si parla tantissimo, è l'argomento del giorno, si parla tantissimo della questione della Fiat, se investe, se non investe, se se ne va, se non se ne va, i sindacati, il referendum, ma non si parla da nessuna parte della condizione degli operai, cioè del fatto è possibile aumentare la produzione o è possibile, e la risposta è no, cioè non è possibile perché già la catena di produzione, la catena di montaggio in sé per sé è un posto alienante, terribile, di distruzione dell'individuo, e semplicemente quello che chiede Marchionne non è accettabile anche al di là di ragionamenti politici, che comunque sono importanti e necessari. Mm-hmm. Senti, questo titolo, partiamo anche da questo titolo, 107 secondi? Sì, 107 secondi è quello che racconta Marco, uno dei tre operai, e lui racconta appunto come inizia lo sciopero. Lui ha 107 secondi per compiere la sua mansione, che viene ripetuta 250 volte nell'arco di un turno di lavoro, cioè che è quella di mettere gli airbag laterali nelle macchine, e appunto, cioè già il fatto che tu devi ripetere un'azione, cioè hai 107 secondi per entrare dentro la macchina, fissare gli airbag, firmare un'autocertificazione del fatto che hai messo gli airbag, uscire fuori dalla macchina e ripetere questa azione 250 volte. La Fiat chiede a loro di diminuire questo tempo. Oggi abbiamo qui Marco, stiamo pranzando insieme con Marco, e ha detto che tra l'altro, ecco, ti stavo dicendo prima che la seconda società aveva in mente di sentirti, magari si potrebbe fare proprio una chiacchierata con Marco, uno dei protagonisti, sì. No? Sì, sì, come no. Ok, allora dopo ci penserà il nostro buon Maxim, ok. E quindi questo, e adesso non sono manco più 107 secondi, perché ci vogliono 90 secondi per fare questa operazione. Quindi il documentario racconta questo giro, racconta questa storia, che è una storia di resistenza, e cioè nell'intenzione, diciamo, nostro, che abbiamo realizzato questo lavoro, è quello di fornire comunque un'arma, se vogliamo, di agitazione, di propaganda, di conoscenza, di sensibilizzazione in quella che è oggi una battaglia epocale probabilmente sul mondo del lavoro. Sì, sì. Ecco, proprio in proposito, come hai organizzato e strutturato il lavoro? E in che senso? Materialmente sei partito, hai detto ora vado, voglio fare questa cosa sulla Fiat, sulle condizioni di lavoro, ecco, come si è svolto il tutto? Ma guarda, si è tutto svolto in maniera piuttosto così, cioè ho chiamato la FIOM, conoscendo la storia di Marco, Antonio e Giovanni, sì, opera di Melfi, sì. E li ho trovati a Roma perché stavano un convegno a Roma, e sapevo che la settimana dopo avrebbero iniziato questa questo pellegrinaggio, diciamo, questo giro, questa mobilitazione nei vari stabilimenti, sono andato giù e li ho seguiti. Okay. Li abbiamo seguiti con altre persone, ci abbiamo formato, diciamo, una troupe. E li abbiamo seguiti. Senti, rispetto anche alle intenzioni che hai di partenza, conoscendo questa realtà, cosa ti è rimasto più impresso rispetto anche a questo mondo del lavoro? Beh, uno è che esiste, anche se ce lo negano ogni giorno, cioè questa figura scompare, diciamo, dall'immaginario collettivo. Cioè, esiste la classe operaia, la classe operaia, quella di cui non esistono più le classi sociali, no, esistono le classi sociali, esiste la classe operaia in se stessa, sono migliaia di persone che in tre turni settimanali, tre turni giornalieri vengono fagocitati nelle fabbriche per stare dentro una catena di montaggio e poi vengono sputati fuori e poi vengono rifagocitati, cioè costantemente. Uno, questo. Due, la paura che c'è stata, e questa è stata anche una difficoltà un po', diciamo, del documentario, perché la gente ha paura di dare la propria testimonianza, ha paura di dire quello che pensa. C'è un aneddoto, diciamo, che è avvenuto a Pomigliano, sì, che ha intervistato un signore che nell'intervista mi dice: sì, bisogna accettare Marchionne, l'intervento di Marchionne, perché ci dà il lavoro, eccetera, eccetera. Io dico: vabbè, c'è intervista. Chiudo la telecamera, appena spengo la telecamera, ripongo la telecamera, questo signore invece inizia a parlare in un'altra maniera. Dice: guarda, io l'intervista ti devo dire perché comunque noi abbiamo necessità di mangiare e quindi cioè io devo dire che siamo d'accordo, ma realmente noi siamo stufi, siamo schifati da questo atteggiamento, e via una serie di insulti, cioè, contro Marchionne e contro la Fiat. Quindi questo la dice lunga sul livello di controllo e ricattabilità del... Ma certo, poi quello che dice oggi, stavamo proprio parlando con Marco, sì, uno dei tre protagonisti, e lui racconta del fatto che cioè il loro licenziamento dalla fabbrica Sata ha funzionato. La gente ha paura di organizzarsi, ha paura di fare sciopero, sì, ha paura perché fuori non c'è... perché c'è tanta disoccupazione, la minaccia di perdere un lavoro a 40 anni è una minaccia seria. Eh sì. Quindi non lo so, io spero che comunque questo lavoro possa servire, cioè non è, magari cinematograficamente non sarà manco sto capolavoro, perché io non è che sono... non è che siamo... Non era forse probabilmente quella la funzione per cui è stato pensato, insomma. Però la funzione è proprio quella di agitazione, di creare anche... e secondo me tutti quelli che maneggiano mezzi di comunicazione, libri, video, bisognerebbe comunque schierarsi in quella che è una battaglia aperta. Cioè è proprio un appello a schierarsi e a partecipare in questa battaglia, con tutti i mezzi possibili, che sono appunto i mezzi di comunicazione, il cinema, i film, i libri e tutto il resto. Senti Bruno, per che itinerari seguirà il tuo documentario dopo questa proiezione di questa sera, questa doppia proiezione al Nuovo Cinema Aquila? Dove lo porterai in giro? Allora, abbiamo... in questo momento non c'è nemmeno una data... Okay. Figura fissa, stabile, ma sicuramente da qui al 28, data dello sciopero generale e di una mobilitazione generale del mondo del lavoro di tutti, diciamo, gli inconformi con questo sistema, io spero che sarà proiettato in vari luoghi. Pensiamo Pomigliano, stiamo pensando a una proiezione in piazza pubblica, nonostante il freddo e tutto, comunque proiettarlo all'aperto. E avete un sito di riferimento per queste informazioni? No. Quindi no. Bisognerà inseguirvi in qualche modo, ecco. Sì, quella potrebbe, sì, toccherà inseguire. Ok. E poi sarà probabilmente a Bologna, sì, a Torino e nuovamente a Roma. e poi a Melfi. A Melfi sì, sicuramente, stiamo già organizzando e penso che sarà nella settimana, nella prossima settimana, solo che cioè, l'organizzazione, cioè ci sono tante cose da fare, tutte le organizzazioni sociali, sindacali sono in mobilitazione, quindi un po' ancora nulla è preciso. Mm-hmm. Un sito di riferimento mi sta suggerendo in questo momento è quello della SUTVS, che è ecco, un momento che chiedo precisamente com'è, Marco? Com'è il sito della SUTVS? www.sutvs con due T e due S. It. Benissimo, allora facci sapere poi chiaramente le prossime proiezioni, ci teniamo in contatto e in bocca al lupo. Va bene, grazie. Un abbraccio, ciao. Ciao, a presto. Bruno Federico, regista del documentario 107 secondi, Operai del Sud. Giovanni Spagnoletti, non ci siamo dimenticati di te. Sarebbe ora. Come stai? Tutto bene. Dalle parti vostre? Dalle parti nostre c'è il sole. E sono anche le mie, visto che siamo vicini di quartiere. Esatto. Allora Giovanni, io ti chiamavo e non ti avevo messo in grassetto perché volevo parlare in grassetto, avevo messo il progetto dell'AFIC Club di cui tu ci parlerai volentieri adesso. Sì, come no. Ecco. Allora l'AFIC intanto per gli ascoltatori è l'associazione dei festival italiani di cinema, è, diciamo così, l'associazione che raggruppa tutte le principali manifestazioni nel nostro paese, in tutta Italia, appunto dal Festival di Torino al Festival di Pesaro, al Genova Film Festival, alle Giornate degli Autori di Venezia, al Festival di Popoli e tante altre manifestazioni di cortometraggio, di documentario e via dicendo. Allora, noi abbiamo pensato che in questo momento particolarmente difficile, accanto a, diciamo così, a quelle che sono le forme istituzionali di un festival, che quindi dovrebbero rispettare dei standard europei, tipo 5-6 giorni di manifestazione, un catalogo in bilingue, eccetera, eccetera, avessimo bisogno anche di una struttura più leggera per quelle manifestazioni che per scelta o per necessità sono invece più piccole, magari hanno la stessa importanza culturale sul territorio, ma non rispettano quelle che sono appunto queste regole con cui si, diciamo così, come il vino DOC, noi pensiamo che esista un festival DOC, ma non è una questione di denominazione, è anche poi una capacità di approfondimento, per cui magari ci sono delle manifestazioni che sono dei premi, delle manifestazioni più piccole, che durano solo 3 giorni, un fine settimana, e soprattutto adesso che è un periodo di grande difficoltà economica è assai difficile mantenere in piedi le manifestazioni di ogni tipo, allora abbiamo pensato di creare un gruppo, appunto una sorta di gruppo parallelo che si chiama appunto AFIC Lab, che è quello appunto lo stesso intento dell'AFIC, solo per quelle manifestazioni che non sono ancora o che non ambiscono o che in ogni caso non saranno dei festival pieni, ecco, questa mm-hmm. è un po' l'idea. Sì. Da ciò anche, come dire, l'idea di però iniziare una discussione anche con le tante manifestazioni magari meno glamour, ma altrettanto importanti sul territorio, che costellano ancora per fortuna il nostro paese, malgrado Bondi, malgrado il governo, malgrado la crisi economica, malgrado tutto, insomma. Giovanni, siete già stati contattati? Sì, abbiamo avuto immediatamente un primo riscontro, la Marcourt, che Film Festival di Rimini, che ha aderito all'AFIC Lab. L'AFIC Lab l'abbiamo proprio iniziato da un mese, quindi diciamo che frutto della fine dell'anno scorso, e adesso, diciamo così, cercheremo di sviluppare tutta una serie di contatti che abbiamo per farlo crescere, per fare in modo che questa manifestazione diventi come l'AFIC, che appunto ha adesso 40 festival italiani, diventi un territorio di anche di combattimento, nel senso che poi l'AFIC è, come dire, anche schierata sul fronte del movimento che vuole contestare la legge, l'attuale situazione della cultura in Italia. E qui arriviamo al discorso Move 09, se non sbaglio. Sì. Dimmi. Ovviamente non è che l'AFIC ha una connotazione politica in sé per sé, però tende ovviamente a difendere quelli che sono gli interessi di una categoria come quella dei festival. Cioè, voglio dire, i produttori sono molto ben, insomma, diciamo molto ben, abbastanza ben difesi da se stessi, gli autori lo stesso, e chi poi distribuisce, ed è un circuito parallelo come noi festival, invece abbiamo una scarsa audience. Gli esercenti ovviamente hanno una potenza anche industriale molto importante, ma si dimentica invece poi il lavoro anche pionieristico di tante manifestazioni, che non sono solamente Venezia e poche altre in Italia, ma insomma per la diffusione, per far conoscere un certo cinema e un certo audiovisivo, che non è, che non rientra nelle logiche magari immediatamente commerciali, ma che è terreno di sperimentazione, lavoro, un mondo anche diverso dell'immagine che i festival italiani nel loro complesso presentano. Se non ci fosse questo, la situazione culturale sarebbe molto più impoverita, no? Allora, una delle, immagino, cioè la finalità principale del Lab, immagino che sia una visibilità e rappresentanza. Esatto. Quali sono le... la discussione anche interna, cioè l'AFIC serve anche per unire manifestazioni che magari non si conoscono, e magari le persone che organizzano i maggiori festival, quelle si conoscono, magari si incontrano anche i festival europei, magari sono amici e cose del genere. Però invece magari l'AFIC Lab, che sono manifestazioni talvolta di cortometraggio, talvolta più locali, e magari sono dei premi anche importanti, ma insomma in ogni caso magari non hanno quella circolazione di idee, e questo è uno dei scopi fondamentali dell'AFIC, far crescere anche una coscienza del proprio lavoro. Ecco, e tra invece le rivendicazioni rispetto alla vostra adesione al Move 09, le vostre richieste? Noi portiamo, come dire, la nostra esperienza, quindi anche quello che tutto ciò comporta. Il fatto che i finanziamenti pubblici siano sempre più ridotti, che le amministrazioni locali di conseguenza si impegnino di meno, che un po' il cinema si trovi in uno stato un po' generale di crisi, ecco, tutti questi aspetti. Quindi finanziamenti e un'attenzione da parte, insomma, un'attenzione anche da un punto di vista culturale, perché, certo. E poi la cosa fondamentale è quella che abbiamo lanciato come AFIC, e così poi magari arriviamo alla conclusione, che abbiamo tentato anche di dimostrare con una ricerca fatta che stiamo preparando insieme allo IULM di Milano e l'ABIS, una ricerca scientificamente corretta di quanto poi le manifestazioni di cinema restituiscono economicamente al territorio, perché sembra sempre che chi fa cinema ruba i soldi invece alle cose fondamentali, come se organizzare manifestazioni non fosse un lavoro, come se a un certo punto portare la cultura fosse solo un fatto, da idealisti, e non comportasse invece un aspetto importante, che è quello anche economico, per cui le manifestazioni di cinema sono dei volani fondamentali per l'economia anche di una zona, fanno lavorare ristoranti, fanno lavorare alberghi, fanno lavorare anche le teste delle persone, quindi tutto ciò deve essere in qualche maniera riconosciuto e non sempre svilito dicendo vabbè, i discorsi che si fanno, allora facciamo la manifestazione di cinema o chiudiamo l'asilo nido, che sono delle delle posizioni di tipo terroristico, perché sono due cose completamente diverse. Giovanni, in chiusura, dacci a questo punto il sito. Il sito internet del... www.afichfestival.it. Benissimo. E info@afichfestival.it. Allora, ci terrai immagino prossimamente aggiornati sulle adesioni, sulla richiesta di informazioni. E avremo modo di riparlarne. C'è anche il regolamento, c'è tutto, quindi uno si può fare anche un'idea di tutte le manifestazioni importanti italiane con la nostra website. Un abbraccio e a presto. Grazie, ciao, Federico, grazie e buon lavoro alla vostra ottima trasmissione. Grazie, ciao.